Vabbè. E allora sì, buonasera. Ciao, buonasera. Io devo aspettare se ne proprio per uscire, devo accompagnare la gabbia, ma poi già rientro. Eia. E io sono qua. In cucina ero. Però vabbè. E quindi non ne vuol fare, no, oggi lavora tutti, non ne vuol fare di. Non ne vuol fare Deva, No, oggi ho lavorato, poi abbiamo mangiato, ci ha fatto l'arrosto il giorno e poi siamo rientrati, a finire, ma una cosa così, giusto sempre l'ora di riposo, né? E vabbè. Va bene, l'importante è prendere e arrostire. Con 44 sì? Sì, sono con lui. 9.30 spaccato. Tu invece sei a fondo scala, attenuato. Questo è tirchio. L'altro lo stesso, quello 4.50 sì, lo stesso come me. Senti un po', ma domani devi lavorare? Domani non devo lavorare, però dai, vengono tutti quanti a pranzo, quindi siamo di preparativi, perché ti? No, vabbè, era per fare quella roba, se avevi voglia di farla, per la giocatrice. No, vabbè, voglia già non è il fatto della voglia, è il fatto che avrò gente da, diciamo, da presto, quindi dobbiamo preparare, dai, dobbiamo preparare con mia moglie. Infatti come intendo a punire roba un altro lavandino a scongelare. va bene, no, io sto aspettando sempre quella pulivapro che mi dovrebbe arrivare, però ancora si parla forse verso il 5, magari. Ma da dove l'hai presa? Da Amazon? Sì. In genere fanno in fretta, eh? In genere fanno in fretta, ti con le consegne. Quando l'hai ordinata? Però c'era dai 5 agli 8 giorni lavorativi. E vuol dire che sta arrivando dall'estero, eh? Sta arrivando dall'estero. Va bene. La radio come ieri è rimasta, che è più gradevole, sì. Sì, vabbè, te l'avrei detto. No, mi sono arrivati anche i GPS, li usano per, questo è per i cani, però sono rotondi, non sono impermeabili purtroppo, stavo pensando di metterli sotto vuoto. Cioè, sotto, no, quelli lì vanno, non sono impermeabili. No, questi no. Oppure mettergli un guanto, cioè un dito di un guanto, perché se si bagnano magari si rovinano, capito? Devi provare a, se trovi, la guaina termorestringente, quella più o meno della misura loro, con quella va bene. Guaina termorestringente. Non so se ce l'ha Bricom e non se ce l'ha la Elcom. Quanto sono grandi più o meno? Circonferenza di credo 4-5 centimetri. Guarda a vedere se trovi la guaina, perché con la guaina termorestringente risolvi, eh? L'unica è quella, però non ce la fai, hanno gli agganci, non ce la fai a fare tutto il, però a te ti interessa solo la parte di sopra. Con la guaina termorestringente, quella è un ottimo. Quella va bene. Se per quello gli metto il naso vulcanizzante, glielo attacco al collare e glielo isolo così, così non prende neanche acqua. Prova. Non è che bisogna provarle e vedere un po' come va. Allora io ho provato, l'ho lasciato a casa, sono andato a prendere a Nicolas, accompagnare a Nicolas a città mercato, e praticamente mi ha detto che il pezzo era qua a casa, poi gli ho dato, cioè gli ho detto avvia, e praticamente è come il coso, come si chiama, il navigatore. Ok, e ti porta, e te lo fa vedere quando tu sei di là? No, si sposta in tempo reale, se loro camminano si sposta anche lui, e poi ti dà le vie dove andare per prenderlo. Sì, hai fatto il coso con la SIM? No, niente. E col... cosa c'ha un Bluetooth? Cosa c'ha? Sì, un Bluetooth che si aggancia a tutti i telefoni in zona. No, ok, buono, aspetta. Buono, no, non la sapevo questa cosa, capita. E poi con quanto ho pagato, con 30 euro me ne hanno dato due, di cui uno si può attaccare all'Android e l'altro all'iPhone, che a me mi va bene, oppure tutti e due all'Android o tutti e due all'iPhone, capito? Sì, intanto loro hanno sempre il collare, quindi ti va la grande, andavè, almeno li vedi in tempo reale e vedi cosa sto combinando questi due. Vabbè, vedo la freccetta, vedo non vedo loro, ma so dove trovarli, là. Esatto, vabbè, logicamente non vedi a loro, però sei la loro posizione, e quello vuol dire tanto. Sì, adesso appena glielo piazzo li faccio scappare, vediamo un po' cosa succede. Te le immagini? Sì, in mezzo alla NC, devo comprare due collari belli, perché belli spessi, diciamo, di due collari almeno in pelle, perché quelli che ho preso dai cinesi, dall'incazzo che ho tirato a largo, e mi è rimasto in mano. Mi ha trattato un good. La svincola, che mi è rimasto, lui è rimasto in terra, il collare in mano, ma vabbè, non è pelle buona. No, sarebbe stata pelle buona, non l'avessi rotto, avessi rotto magari la fibbia, il ferro, però il collare non li tratti. Io al Fornese l'avevo fatto fare da si chiama il Ane de Sirbones, ed è 12 centimetri grosso, cioè largo, in pelle, con diciamo, e dentro ha una sorta di rivestimento in alluminio fine, però è antimorso, capito? Cioè non c'è, il cane se lo prende al collo non ce la fa a rompere, è proprio provato con i dogi argentini, collodato con i dogi argentini, perché lui ha i dogi sardi, i dogi argentini, li alleva proprio, ed è proprio un collare fatto antimorso, capito? Bello. No, vabbè, non voglio essere così, perché così magari incute paura, però un collare giusto per nascondere questo aggeggio che c'è, dai, che poi nascondo, glielo metto all'esterno, non glielo metto dentro attaccato al collo, perché gli darebbe fastidio, no, all'esterno, così, legato con questo nastro vulcanizzante, oppure gli metto, che poi questi qua suonano anche, se gli dico di suonare suona, mi dice se quando il segnale è pieno vuol dire che non è vicinante, e così via, no, è bellino, è una cosa, non è al top del top, però insomma, per quello che hai pagato va bene. Cosa ti vuol dire? Vabbè, devo comprare dei collari, però quello che hai tu, quel collare che hai tu, è bello vederlo, questi cani aggressivi, tutto quello che vuoi, però metterlo a un cane buono sembra incute paura. Belli dogi argentini. Sì, questo qua li alleva, però io gliel'ho preso addirittura per agganciarlo alla doppia fibbia, capito? Ti ricordi gli anfibi che avevi da militare? Quelli lì, aggancia così con la doppia fibbia, grossa, che è grossa 6 centimetri, e poi non ha le punte, ha una sorta di borchie, borchie sparse per tutto il collare, agganciati, rivettati a questa piastra. Rivettata a questa piastra, quindi sono, e lui metto Gavi collodato con i cani e non li fa nulla. Addirittura quando è mollano perché è uno strato d'alluminio, perché fai proprio, una volta che prende la forma sua del cane rimane un po' rigido, più ha la pelle, è un po' pesantuccio. Ti mando la foto di questo collare, è nero con la scritta Ane de Sirbones, sa 100 euro capisco. Va bene, io devo spostarmi, devo accompagnare a Gabriele, dai, nel caso ci sentiamo più tardi, intanto già devo ritirare a Nicolas adesso e poi intanto non devo mangiare, ho già mangiato poco fa. Se aspetti ci faccio una chiacchierata, se no vedi un po', dai. Sì, ti sono, dai, come entri? Chiamami là o chiamami qua, vado in cucina, tanto no che non vi posso nulla, capito? Quindi tranquillo, tanto domani già mi posso alzare anche un po' più tardi. Ok, a dopo, ciao te. Ehi, ciao, a dopo, ciao. Ma stai guardando qualche film? Prova. Eccolo qua, vediamo un attimo. Ho abbassato il watt, non lo ricordavo. Lo vedi, a volte prendono, quello è il discorso di usare tante radio. va bene, è così, carissimo Ottino, stanotte fai niente. No, io ho mangiato due pezzettini, ma poco fa, due pezzettini di carne a brodo perché ne avevo voglia, con olio e sale, e basta. Due pezzettini di? Carne a brodo. Ma lì si è fatto il brodo con la carne di vitello, e allora a me piace fare una insalata. Buona, carne a brodo è buona, la miseria. L'unica cosa che non sopporto io a brodo è il pollo. No, perché? Che mi va di schifo. Solo a vedello, ma voi ben sa mangiarlo. Ma no, dai, anche quello c'è buono. No. Io il pollo lo mangio arrosto. Arrosto lo mangio con le olive, con i capperi, in tutti i modi, me ne mangio un bel, mi biasi, mi mangio anche un pollo da solo, se me ne dà anche uno e mezzo, però non me lo dare fatto a brodo perché a chi briemo. No, a me piace, tolgo la pelle giustamente, lo spulcio e faccio olio d'oliva e sale, boh. No, è proprio una cosa che mi fa senso, davvero, mi fa senso, il pollo io lo mangio e mi piace qua tantissimo, arrosto, gli fusi di pollo fatti in friggitrice ad aria, fatti arrosto, fatto come vuoi, però non me lo dare a brodo, a chi mi scimma la mara e mi ammarrabbio un po', tutto quello, io il brodo lo mangio di vitellone, lo mangio di quello che vuoi, verdure, cose, mi piace un bel brodo, piace tantissimo, tutti, le minestre, i legumi, però l'unica cosa che non sopporto è il brodo, il pollo bollito, porca miseria. È come che a me non piace la polenta, tutto il resto è noia. Neanche fatta a purè? No, non mi piace per niente, non buona, mamma quando ero ragazzino, piccolo, me l'ha fatta mangiare a forza, quella grossolana addirittura, E quindi no, no. No, no, grossolana, grossolana no, neanche fatta tipo pasta al forno. Sì, no, però a purè o la salsiccia, non la fetta interessa, la salsiccia fatta a cubettini piccolini, preso, fatto il soffritto, messa la polenta, oh, io, io. E anche appena appena il zafferano non è male in mezzo, col pepe nero, un po' una bomba, però è buona, polenta, salsiccia, zafferano e pepe nero, è buona. Mi adesso sto guardando, sono, questi qua fanno le salsicce come, come salsiccione, ma perché? Cioè le salsicce come le salsiccione, cosa vuol dire? Lunghe. A Fondi la fanno così. E qua adesso facciamo la salsiccia, sai, ti danno le salsicce, la loro ricetta, dai. Però mettono il budello lungo. A Fondi la fanno così. La fanno così alcuni, diciamo, alcuni produttori di Fondi la fanno proprio a sacchizza, proprio a sacchizzone, sì. Domani avevamo, dovevamo lavorare, invece è saltata la serata. È saltata la serata, hai capito? Domani dovevo andare a Desulo con i Centales, però è saltata. E come mai? Non la fanno più? Non la fanno più. Motivi, motivi burocratici. Ah, ok, ok. Pensavo che era disdetta per via, che ne so, anche di mancanza o luci, vale varie, dai. Cioè luci? Magari in quella zona hanno fatto un lavoro e non hanno corrente. Ma nessuno te ne dà corrente così dall'Enel. Care che ti ridate 100 kilowatt, noi richiediamo 100-120 kilowatt. E poi quanto pagate? Ma no, noi non paghiamo niente, paga l'organizzazione, prendono il gruppo elettrogeno, noi andiamo sempre sotto il gruppo elettrogeno, o due gruppi o un bigruppo, in genere portano due gruppi elettrogeni da 60 kilowatt l'uno, 72 kilowatt ampere l'uno. 60 nominali sono, da e noi siamo uno per l'audio e uno per le luci. No, non c'era roba, dai, deve essere, non sono messi d'accordo alla fine. È saltata stamattina, è saltata stamattina anche questa cosa, stamattina presto, quindi stavamo lavorando giù già la mattina presto e poi è arrivata la notizia. E vabbè. Io, per dire, ieri non abbiamo lavorato ed era una giornata da lavorare. Infatti domani aveva dato anche bel tempo, ma purtroppo è così. Purtroppo è così, non ci puoi fare niente, non ci puoi fare proprio niente. Quando sono queste cose burocratiche, e poi doveva arrivare anche il gruppo di Modena da fuori. Poi di lì si parla anche di penali, capisco. No, vabbè, a me è andato bene perché teoricamente sarebbero stati 23 giorni e già è superato la soglia di 160 ore, quindi sì. Vabbè, sono soldi. Vabbè, per me no, non è, anche per me, cioè domani la mia è la persa della festiva. Domani sarebbe stato per me un bel bruzzoletto, veramente un bel bruzzoletto. Però quando gusti cosa vuoi va? Se pensi che hai perso i soldi ti metti a piangere. Si recupererà. Diversamente non so cosa pensare. Se penso ai soldi è una disperazione. Ui, lascia perdere cosa pensi ai soldi. Ti stai dicendo che è inutile versare, sto versando lacrime a mare. Guarda, non sei da solo, tutti siamo usi, almeno per quanto mi riguarda siamo usi, e con qualsiasi persona che lavora È così, è così, nessuno ti va avanti, lo sai chi va, chi tira, chi sta, non chi sta bene, chi riesce a respirare, gli statali che lavorano in due, lui magari marito e moglie lavorano in due statali, allora di lì si inizia a stare a respirare. Però il monoreddito oppure i due redditi di una piccola azienda non vai più da nessuna parte. Noi siamo due redditi, ma non ti puoi permettere il lusso di niente. Non ti puoi permettere il lusso di niente. Se magari fai qualche cambio, fai qualcosa, fai, è perché hai venduto il vecchio, compri l'altro, vendi il vecchio e compri il vecchio. No, non è che puoi fare chissà cosa. Almeno che non hai chi ti passa ogni mese i soldi, e allora poi ti puoi permettere il lusso anche di andare a farti una bella vacanza, una bella gitta, ma così non si può, almeno io non ci riesco, e noi siamo due redditi. Figurati io, grazie a Dio, insomma, sto lavorando sempre. Tu pensa che ogni mese, già allora, già sono già 5 mesi che avevo praticamente doppio stipendio. Secondo te? Non fai niente, non fai niente, non fai niente. Fai nulla. Già lo so, e non è che te ne sei andato in crociera alle Maldive, te ne sei andato in America. Torra, ma chi sto a Burien davvero? Non lo so che come fa chi è mezzo reddito. Non lo so. Adesso se trovo bene mi faccio una cosa, mi metto delle latte e mi compro la stufa anche a pellet. E vedo dove piazzarla. Ti sei emozionato? No, sto ascoltando una cosa, aspetta. Ah, ok. No, stavo ascoltando ciò. Senti. Lo senti? Sì, ma chi c'è anche? Marco? Sì. Ogni voglia di stare. Anche perché non mi devo preparare niente, mi devo entrare in bagno e farmi le mie cose. Sì. Io volevo dire, quando andrò in bagno entrerò a salutarli. No, perché tu pensa che io ancora devo andare a fare una bella doccia, nel senso che non ho fatto grandi cose oggi perché l'ho trovato, l'ho fatto insomma le mie solite lavorazioni, però arrivi a casa, ci accompagnerà a quello, devi ritirare a quell'altro, devi riprendere a quello, no, devi accompagnare a quell'altro, oggi ero il tassista. Sì, toccherà anche a me. Tu ne hai una, qua ce ne sono due, tu pensa che quando stavo rientrando non ho potuto prendere, quindi sono entrato prima a casa, dopo tre quarti d'ora, quasi un'ora, sono andato a prenderlo, sono venuto qua, si è fatto la doccia, l'ho dovuto riaccompagnare fuori, sono rivenuto qua, ho aspettato un'altra tre quarti d'ora, un'oretta, e ho dovuto accompagnare Gabriele fuori, poi sono rivenuto qua, sono dovuto andare a prendere Nicolas, guarda. Non dire allora che non consumi, già che la macchina consuma, sei tu che la fai consumare. No, oggi sì, oggi ha consumato per loro, non per me. Sembra così, ma fare anche quel tragitto, quanto sono da 5 chilometri? 3 chilometri, anzi 3 chilometri a via Marco Polo, quindi sì, 3 chilometri, dai. Sì. E quindi già c'è il la fai già 4 volte al giorno, andare e tornare sono 24 chilometri, di lì già si vede già il consumo. Di lì si vede già il consumo, però aspetta che forse io sto creando un disagetto qua, aspetta. Qua c'è un disagetto, io non lo so cosa dove mettere, vabbè io metto qua, ma si veda, vediamo un po' se disturbo, non dovrei disturbare, no, non dovrei disturbare, va bene, scusami ti se te l'ho fatta lunga, vai. No, io dico, ma perché c'è anche cosa che stiamo curando? Cosa? Ti? Ho detto perché c'è anche il tuo vicino che sta murando. No, avevo... Non ho capito cosa... Sicuramente sono questioni di spazi che ho utilizzato io per... diciamo tra la Grazioli e l'antenna della VHF Marina. E in 156 800 quando dai oltre quel wattaggio là mi apre la portante, non lo so, devo spostare l'antenna oppure metterla più bassa. vabbè, può capitare. Ehi, sta uscendo, adesso no. Che è combinato? Prova. Aspetta che abbasso. Prova. Adesso ho abbassato... Cioè sono 20 watt, ma è impossibile. No, 20 watt no. Sono con 20 watt io adesso. Ah, pensavo che tu vuoi di più e ti dava solo 20 watt. No, con l'amplificatore, dai, avevo l'amplificatore attaccato, erano 200 watt, ma può essere che sia andato in protezione per l'amplificatore, diciamo il dottor Canto associato. Tu hai l'amplificatore, quanto gliene stai dando? Posso entrare con 35 watt. Fai con 30, va bene. No, ma sono con 20, sono con 20 watt, no, non gliene stavo dando, cioè non lo porto all'esasperazione, non me ne affutti nulla di portarlo all'esasperazione, però porca miseria, cioè non è che questo strumentino invece è della merda. No, vabbè, tu 20 watt, però devi 20 watt modulati, cioè devi fare il picco massimo, capito? No, vabbè, in FM 20 watt, da. No, non è che in banda laterale, poi la banda laterale mi dava 22-23 watt modulati, capito? Però secondo me era una sorta di protezione. Già può essere. Può essere, è vero? Sì, può essere sì. Io adesso per certo non te lo so dire, però guardati il manuale. Però l'amplificatore avrebbe dato problema. L'amplificatore mi ha proprio dato problema l'amplificatore. Proprio non era roba di. Mio roba di strumento. E che ne sacci. Cioè, sto guardando questo tipo qua che ha delle radio superiori alle mie, è anche vintage. Mi sembra che ha 8. Come si chiama il caso? Aspetta, 8 lineari della Kingwood, quelli, porca miseria, non viene il nome adesso, il TL22. Sì, il 922, sì. Aspetta, a provare a attaccarlo a vedere. Eia, poi al Cobra, quello vecchio, è tutta la mia Cobra, 450. Già ne ha roba, bella. E tutte le radio rigorosamente accoppiate con un solo microfono. Ma cosa stai facendo? Vedi un po'. Cosa stai facendo? Il wattaggio in ingresso stavo pilotando. E adesso com'è? 20 watt, però c'è un amplificatore spento. Ah, è così. Io sono un po' così, un po' giù. Dai, adesso devo mangiare i cani, faccio la luce, mi vado da nanna, se no faccio tardi, domattina. Mi ne beso d'acchio, che devo scuotere le olive domani. No, sono tutto il giorno a casa. Eia. Io adesso sono di nuovo l'amplificatore acceso, vediamo un pochino cosa dice. Però sei più basso. Cioè più basso? Prova. E parla. Guarda a vedere. Prova. Allora, quando hai detto guarda a vedere è salito a 9.30, poi prova e a 9.20. E 9.25 sì, dai. Sì. Non vorrei se ne stia andando anche la batteria in questo affare. Allora, PVR. Inizio a vedere. Dice già così, dai. Andare, dai, ci aggiorniamo. Perfetto, dai, ci aggiorniamo. A domani. Ciao, buonanotte. Ciao, buonanotte, Gabi. Saluto a Correa. Yes. Buonanotte anche a te. Ciao. Notte.